ciao Giri. Dunque RT, allora le prossime, io non sapevo neanche che c'è. Allora, il cambio per chi tocca, non so, Giulio, riprendi tu, vai. Ok, ciao. Ciao qua. Sì, sì, sì. Ascolta, ti volevo fare una domanda sempre tecnica. Ma il 440 in FM cosa dà? Una potenza unica o regolabile? Mi spiego, se per dire io sono nella M, metto per dire che sono 20 watt, se passo in FM rimangono sempre 20 watt oppure si regola automaticamente la radio? Com'è che funziona l'FM? Cos'è che non me la metto giù? Perché a me l'altro giorno che siamo passati in FM, non mi ricordo con chi, io ci avevo 20 watt in AM, sono andato in FM ed era 100 watt. Robe? No, devi abbassare, passa automaticamente alla piena potenza, molto di più di potenza, per cui bisogna stare attenti perché come comodi arriva a 100 watt di colore, per cui devi abbassare parecchio. No, scusate un attimo, sempre che ti ha fatto questa domanda, Clark, perché io adesso, un momento fa, 10 minuti fa, stavo facendo delle prove controllando cose, no? le stazionarie eccetera e poi pensate, adesso faccio le stesse prove anche in FM e ho visto che addirittura il wattimetro mi dava molto di più di 100 watt perché batteva fondo scala in una maniera impressionante. Quando sono passato in FM dopo aver accordato tutto eccetera eccetera, e quando ho pensato, ragazzi, ma allora abbiamo una potenza superiore in FM, sicuramente così, boh, non lo so, lo prendi? Sì, senza ombra di dubbio, è il triplo. Se tu sei a 20 watt in AM e passi in FM, ti dà subito la massima potenza, a me addirittura mi dà oltre 100 watt, e allora devi regolare, io lo metto a 50, 40, 50, capito? Poi però quando torni in AM, devi regolare nuovamente la potenza, perché se no è troppo bassa, è il contrario, capito giù? Sì, appunto, di quello me ne sono reso conto con il wattmetro, perché non avevo mai fatto una prova del genere, no? Non ci avevo mai pensato, e mi sono reso conto che con lo strumento mi dava tre volte tanto la potenza, se non quattro addirittura, perché ripeto, mi sbatteva contro la scala dello strumento proprio in maniera violentissima, ma faccio tutto anche dove, invece no, poi ci ho riflettuto un attimo, sa vedere che invece la questione cambia tutto in quel modo lì. Va bene, dai. Avanti Massimiliano. Sì, c'è Luca anche lui, perfetta, eh. Ottima modulazione, Claudio, bella, mi piace questa modulazione. Consiglia, ti sto facendo la foto, se vuoi ti faccio, ma l'avevo già fatta l'altra volta la prova, e mi pare proprio Roberto mi ha fatto togliere, me l'ha fatto togliere, capito? Me l'ha fatto togliere, aspetta che forse non è questo, boh. Va bene, avanti Gianni lo profeta. Ehi, dai, dico anche io la mia, va bene qua. Te la provo, metto il mio sigillo e il mio bollino, eh. Oh Claudio, dimmi. A quanto l'hai regolato rispetto al 60 l'amplificazione? No, allora l'ho abbassata perché tieni conto che l'MC80 è amplificato, però si può regolare perché dietro c'è un trimerino di bianco di plastica col cacciavite induttivo, perché se lo rompi fai un casino. L'ho abbassato lì, ok, perché lo stavo usando in FM, però ho abbassato allo stesso tempo anche l'amplificazione del microfono. Prima ce l'aveva 1,5, quasi 2, il Mickey Gate praticamente del 440 ce l'ho messo a 1, capito? Siccome fare la regolazione che sia uguale 1 a parlata, se l'MC60 con l'MC80, se si può regolare da sotto l'80 lo fai uguale allo stesso livello, così non stai a regolare ogni volta il microfono. No, beh, l'80 rimane così fermo perché non c'è bisogno di sollevarlo, non è neanche a metà l'80 come microfono, ma la regolazione adesso della radio è uguale, 1,5 per quanto riguarda questa modulazione e 1,5 per quanto riguarda il 60, non cambia niente, solo che questa è più amplificata. Confermi Massimiliano? Sì, questa è molto più amplificata, claro. Molto però, come potenza di diciamo microfonica è superiore allo 60 questo. Quello roba che avevamo riscontrato l'altro giorno, capito? E tu mi hai detto troppo forte qui e là. basta non gridare, queste sono le regolazioni. Va bene, poi chi c'è? Giulio, dai, riprendi tu. Ti va bene questa modulazione a te, Giulio? Tanto va bene. Ma hai detto che io posso vabbè puro guru gorro, uscì hai detto rimane, guru gorro di voi. Infatti, con il bue potresti anche parlare, così eviti anche di spendere tanti soldi in microfoni, per cui tanto la tua voce va bene sempre, per cui cosa vuoi fare? Mille prove, mille promozioni, cioè prima alla grande sempre 10, anzi 11, no, se il valore da 1 a 10 facciamo 11 direttamente, per cui io ieri ti ho consigliato di provare anche con lo collo di bue per vedere se cambia qualcosa, perché siamo abituati a sentirci sempre nello stesso modo, per cui va bene così, va bene, avanti Robè. No, già bella potente la cosa, non mi ricordo il confronto adesso con 60, perché a orecchio più o meno stanno andando tutti e due allo stesso tipo di tonalità, almeno a orecchio, strumentalmente non me lo ricordo. Ok, chi c'era poi qua? Chi è rimasto? C'è Lubrefetta, c'è Luca, c'era Franco Califfo e c'era Natalino, non so chi ci è rimasto, però se ne sono andati o boh. E poi c'era Angelino, non ho salutato, vabbè, l'avevo salutato un'oretta fa. Natalino, ancora ci sei? Luca. Questo è il 60, senza toccare il Mickey Gain della radio. È appena appena più basso il 60, la modulazione, cioè, a me piace più il 60, devo dire, però l'altro è un po' più naturale la voce. Ti piace il 60, devi spingere di meno, non ti va tu sollo. Massimiliano. Io si sente che il 60, si sente. Però quella là mi piace di più come tipo di modulazione, adesso che ho fatto questi due paragoni. Quella là è molto forte, molto bella, è molto presente, non strappa, a me mi piace avere un combattimento, capito? Bella, va bene sia una che l'altra, attenzione, capito, Cla? Come ieri, no? Col DAC, va bene sia col 50 che con l'80, capito? Con l'80 c'è quella spintina in più. Va bene, allora questo è il 60, adesso cambio, metto l'80 e lascio l'80 e puntello. Vai, Lubrofè. Eia. Oi, Sant'Antonio mio, come diceva qualcuno. No, Natalino si è spostato perché stava preparando da mangiare robe. Angelino ha chiuso perché anche lui, presumo, stava preparando la carica. Franco lo stesso è sparito. E gli altri, non so, comunque, i superstiti sono rimasti tutti qua. Scusa Robè, Lubrefè, ma quella radio cosa c'ha? I water regolabili? cosa mi vuoi istigare a fare? No, dall'interno, ma adesso una volta toccati non ne ho più tono, cioè sono rimasti così come sono. No, non ti voglio istigare a fare niente. Nel senso che diciamo che tu abbassandola quella radio un pochino, tipo adesso l'hai messa a 8 watt mi pare, così è. K di Rosmat, sì, perché oltre non va. Perché se vado col fine corsa, col trimmer mi dai picchi negativi. Per quello te lo sto dicendo. Devi fare una prova che secondo me va più bene, secondo me. Se tu quella radio la porti con lo 4 watt, poi tanto il picco di modulazione è sempre quello, E secondo me la radio ti aumenta un po'. Dovresti fare questa prova, anche se è bella squillante, bella forte, mi piace. Però sono sicuro se le abbassi un po' il watt, la radio spinge un po' di più. Guarda, strumento qua sono 8 oscillanti 9, cioè si muove lo strumentino. Non so se mia modulazione c'ha picchi oppure è stabile, non so, ditemelo. Da me è stabile, è fermo sul 9, ecco per quello te l'ho detto. Cioè il picco di modulazione da me non c'è. Vai Giulio. Ok. Sì, anche da me è appena più del 9 quando non stai modulando. Quando modulo arriva al 9,5, ma niente di particolare. Io piuttosto mi piace anche quella radio, è forte, no? Non ci sono dubbi. Secondo me, questa è un'idea mia, io penso che lui ha la LC troppo alta, perché quasi sulla soglia dello strappo, secondo me, perché rimane troppo stridola, rimane, forse ho parlato troppo forte, non lo so questo, però è bellissima la radio, va ultimamente bene, sia come segnale, in quanto antenna, considerando quello che ha, e in quanto a microfono altrettanto ottimo. Però io penso che abbassando ma di un pelino la LC solo per la radio, suppongo che la radio verrebbe anche più chiara, non lo so, e questa è una prova naturalmente da fare. Però Gianni, va benissimo anche così, la puoi lasciare tranquillamente, non c'è problema. Facciamo girare, che c'era Luca, ci doveva essere, ma Luca si era allontanato, poc'anzi, Natalino altrettanto. Facciamo girare a Roberto, vai Roberto. Io, ok. Comunque 60 è sempre un bel microfono, no? Ti rigirano, andrà sempre, non puoi rigirare, attacchi e vai. E Gianluca, lo stesso stacco questo? Questo lo stacco? No, ho capito, scusa, cosa avete? Guarda, lo stacco, come quello del 60, si sente, lo stacco, senti? Sì che si sente, ma cioè, cos'è, che microfono è questo? 60, no? Questo lo sai perché si sente, perché l'80, l'80 e l'85 hanno questa caratteristica, Giulio. Cioè, ma è il corpo della portante oppure è un qualcosa che entra in funzione e si sente come ricezione, si sente, non lo so, perché io ho tanto lo schiaccio piano e non è che lo schiaccio forte, lo schiaccio piano, quasi lentamente, per cui evidentemente è proprio la caratteristica del microfono che fa così, o la radio, sarà il rene della radio, non lo so, tutto lì. Guarda che vediamo. Guarda il mio se si sente. Si sente? Sì, che io lo sento. Sì, ma questo è un bel forte, io lo sento in cuffia, fa di boom, boom, quell'80, il 60 di meno. No, quello boom, boom, lo sento da solo, no, io questo è il microfono palmare CTE, quindi non si può sentire, non è la radio della lì. No, poi a Claudio stavo dicendo, quello boom, boom, boom, quelli sono quel tipo che è andato a correre dai fuochi d'artificio, ovviamente. No, questi sono i colpi, mi stanno andando in testa. No, ma l'80 io l'altro giorno, quel giorno l'ho provato che Roberto Metto era troppo alto, mi ha dato un messaggio a Antonio Reserva, mi ha detto poi stai usando l'80 e il si riconosce subito dal tocco del PTT, perché fa questo rumore, capito? Beh, comunque è ottima, ottima, va bene. Capito, Lubrafè, cosa ti volevo dire, la radio è bellissima questa, io no, non, cioè, perlomeno io non ti sento strappo né nuda, e neanche strappato, tutto qua, è una prova che potresti fare, tanto non è che, vabbè, ma tu non fare niente, che fai, che si caccia a viti, non si viene a nulla. Giulio, se lo senti strappato, in alto, dove accendi la radio, togli l'NB, disinserisci l'NB in fuori. Sì, vabbè, d'accordo, non è che lo sento proprio strappato, io ho detto che è vicino alla soglia dello strappo, perché lo sento un po' strido, lo sento, però ho una radio ottima, forte, che non disturba niente, però ho avuto quella sensazione, magari mi sto sbagliando, non lo so, si tratta di provare eventualmente se lui ritiene di poterla fare una prova, ma comunque va benissimo così, nessun niente da dire, ci mancherebbe altro. Avanti, Roberto. Togli l'NB e riprova, sai come ti dico io, togli l'NB, io lo faccio sempre, togli l'NB e fallo riparlare, senti se cambia la modulazione. Ok, vabbè, posso fare così, provare e vediamo un po'. Adesso è inserito, io ce l'avevo fuori, ecco, ce l'avevo disinserito, adesso è disinserito, adesso l'ho inserito, per cui non c'era, non li uso mai io quei tasti, non li uso mai io qua. Sì, ma io lo tengo sempre inserito, lo disinserisco solo quando parla Luca e Massimiliano con le radio modificate, perché me li manda in distorsione, capito? È una cosa che fanno un po' tutte queste radio HF. Se ce l'avevi disinserito va bene per fare la prova, se poi lo vuoi inserire la puoi rifare la prova, non c'è problema. Beh certo, non c'è problema, mi adesso lo inserisco e ripassiamo un po' il microfono a Gianni Lubanfetti e vediamo e sento un po' se è lo stesso effetto o meno. Vai Gianni. diciamo che anche la mia timbrica di voce era abbastanza squillante, abbastanza presente, dai, quindi probabilmente poco fa, mentre stavo ridendo, ho alzato un attimino il tono della voce. Adesso sto parlando con un tono di voce normale, quindi nella norma mi dovresti sentire bene adesso. Sì, adesso ti sento bene, parlando così, con un tono di voce, o eri troppo vicino al microfono, o adesso è proprio perfetta anche per me, proprio al 100%. Non ho notato nessuna differenza con l'NB inserito o disinserito qua, adesso per me va benissimo, sia in un modo che nell'altro, forse quel tasto lì serve per il microfono da combattimento, non lo so, comunque faccio le prove anche quando sarà il momento, o quando sento microfoni da bombardamento. Va bene, avanti Massimiliano. Sì, volevo chiedere, un braffetta, come mai stava ridendo? Oh, yeah. Questa è istigazione a delinquere. Provalo Massimiliano invece, intanto siamo in fase di prove. Mentre parla Massimiliano, tu lo inserisci l'NB e lo disinserisci. Guarda la differenza, a me me lo fa. Ma è perché io sto usando una radio normale qua, non è una radio modificata questa. No, mai modificata, anche se chiudi a me me lo fa lo stesso. Perché c'hai, forse Roberto lo sa spiegare meglio, c'hai praticamente gli acuti troppo alti, e quindi se lo tengo inserito l'NB, che è un filtro, un noise blanker così chiamato, ti chiude la modulazione, invece se lo disinserisco te la apre, e quindi te la fa più bella, capito? Aspetta, va bene, è un filtro, diciamo, un attenuatore, ti taglia un pochettino gli acuti, diciamo, con le frequenze un po' fastidiose. Vabbè, non lo sapevo. Lo devi sapere perché c'era anche tu. Hai provato, Giulio, mentre parla Massimiliano? Sì, ho provato, ma non noto differenza, perlomeno con questa radio che sto usando adesso non noto differenza, per me è uguale, o so cosa odio, oppure ho le orecchie ancora sporche, che stamattina me ne sono lavate troppo presto e si sono già sporcate, chi lo sa, va bene, andiamo avanti, vabbè, non diciamolo scherzando, con l'età poi le frequenze acute un pochettino le perdiamo, dai, hai uno è più sensibile, l'altro è meno sensibile. Nel 140 l'NB c'era addirittura regolabile, non ha giù compreso, come l'hanno messo sul 140 regolabile e fisso sul 440. E ne ha due il 140, NB1 e NB2, che sono molto efficaci, sia in AM, FM e sia in banda laterale. E il 440 perché c'è il notch, capito? C'è il notch regolabile, quindi regoli da lì, però vabbè, non serve a niente. Vabbè, se non te lo fa, meglio così, evidentemente la vicinanza, cosa vuoi dire? A me me lo fa sia Massimiliano che Luca, insomma, quelli che usano il baracchino modificato, devo disinserire l'NB, ma da sempre, non lo so perché, 430 non lo fa, mentre il 140 e il 440 sì, vabbè, le prove le abbiamo fatte, quindi lascio questo, l'80 per il momento lo facciamo andare, dai, 60 è a fianco, ce li ho tutti e due, l'ho messo in mezzo, come ti ho mandato la foto, così sto modulando. Avanti, lo profetto. Eia, per fare un paragone con i motori, voi è come se aveste la detta integrale e io il 112 a parte, dai, quindi sono il più piccolo di tutti. Sì. Che va? Chi è che ha parlato? Io sono, gatta, quando vanno le cose più. Natalia, ogni tanto già mi la volta, avanti Natalia. La musica però ce l'ascoltiamo con calma, dai. No, sta ascoltando la messa mia moglie. Signore. Quello dell'SP940, comunque qua, quello che mi ha dato tu, c'ha anche i filtri, due filtri per gli alti e i filtri per i bassi, quello lì è veramente funzionale. La colonnina del 940, quella è bella, quella c'ha sì, c'ha i filtri stretti e i filtri larghi, una grandissima colonnina. Tu immaginati che io comprai quella colonnina alla fiera di Novegro, in una bancarella dell'usato, comprai quello e mi pare forse un MC60 usato. Allora, la colonnina la pagai, eravamo già, sì, avevamo già in nero, la pagai 110 euro usata. Quando è uscita quella colonnina costava 230 euro. No, guarda, io c'ho anche l'altra, l'SP93, sono uno a fianco all'altro, per dire, le posso sentire, ma c'è, non c'è paragone tra una all'altra, proprio quando ascolti un radione e poi ascolti una cassa acustica, è un suono completamente diverso, molto più fedele, dai. No, le colonnine con i filtri sono un'altra cosa. Sono un'altra cosa, va bene. Se sentite qualche vento in più, ho acceso l'HF. Devo vedere una cosa, riprendi Giulio. Ok. Sì, qua. Naturalmente, vedi, adesso io ho inserito anche il notch. Ho inserito, no? Naturalmente, agendo sulla manopola grande, che si chiama, no, c'è anche quello, sì. Intanto si è andato, noi se dici quello, poi viene comandata dalla manopola grande in alto a destra, e con quello sì che cambio la tonalità, più acuta o meno acuta, o Claudio, con quello sì, l'ho provato con tutti voi e funziona. Sì, con quella è così, sì. Se sentite rumori, c'è il phon, c'è un sacco di casino qua, va bene. Adesso viene a casino, adesso chiudo la porta, dai. Mi stavo ascoltando, quindi sono immuni con il coso qua, va bene, dai. Avanti Massimiliano. Sì, positivo, dai, non so se sto uscendo, ho cambiato radio qua, eh. Questo è il Cobra. Va bene, ottimo per la truppa. Com'è Giulio questo, va bene? Sì che va bene, è a voglia. Ah, grande, altro questo va bene, capita. Forse ha un po' qualche watt in meno, perché è leggermente più basso di segnale, però la radio è ultima, perfettamente ultima. Tutto lì, riprende, vai. No, qualche watt in meno no, ne avrà qualche uno in più, sicuramente. No, aspetta che ho toccato veramente il vuoto e mi stavo spostando le frequenze. No, come watt io qui lo registro leggermente più basso, cioè come segnale, ma di un attacco, di un punto, non è niente di particolare. Prima mi sembra, o era il microfono o l'altro che era più forte, mi dava quella sensazione, anche perché ho la freccia dello smitter registrata in maniera lenta, perché qua c'è la regolazione che quando tu muovi la portante, anziché scendere di colpo la freccia dello smitter, scende più lentamente. Sarà quello forse che mi ha ingannato, non lo so, però mi è sembrato leggermente più basso di segnale, ma una cosa proprio quasi da niente. Vai ancora. Allora ti spiego, questo c'ha, allora guarda, allora. A volte devo controllare questo microfono, perché a volte esce, a volte no. Ora 3 watt e 70 modulati. Vabbè, no, ma il segnale è sempre buono, 9,10, e poi quando parli sale anche a oltre 9,15, quasi 9,20. Però prova a mettere solo la portante fissa e vediamo, e poi magari quando cambi di nuovo ti dirò se c'è questa differenza, senza parlare, senza modulare. Questo ha 3 watt così, guarda, ora, no, vabbè, sono i watt su dalla radio, questa è la bassa potenza, diciamo. Sì, questo è 9,10, esatto, perfetto, proprio spiccicato, 9,10, poi se puoi fare di nuovo le prove, prenda con l'altra, vediamo un po', poi ti dirò. Avanti, vabbè. No, ma la sento diversa, la modulazione è comunque Massimiliano. Il segnale adesso non ho guardato, questo passaggio è di quasi 9,20, però la modulazione la sento più cupa rispetto all'altra. Ma è un'altra radio questa, Robè, guarda, ti ho mandato la foto. Questa è un'altra radio, non è quella, capito? Sì, cos'è questo? Ho capito. Non è il solito che stai utilizzando tu. Il segnale, boh, non me ne sono accorto di differenza. Qua sei quasi 9,20 con i picchi arrivi. Da 9,15 passi a 9,20. Però la sento più chiusa come modulazione, un po' più bassa come livello, come che tu sei raffreddato, dai. Va bene, allora questa è la bassa potenza, dov'è? Guarda un po', è così, Ma questa è quella di poco fa? Così è l'alta potenza. Questa è quella che stai utilizzando adesso, l'ultimo passaggio. Cioè 9.15 a portante muta, è 9.20 in parlata modulata. Così sei 9 più 5. Allora, hanno staccato, sei 9 più 5. Andrà bene mera. Ok, questa va bene, questo è nuovo, nuovo, bello. Sì. C'ho il microfono, il tunnel più 3, ma lo provo a attaccare, ma non esco molto bene io con quello. Adesso provo a fare giusto un paio di passaggi, ok? Ma questa che cos'è? La, il microfono normale? Sì, questo è il microfono normale. Va bene, non è che vada male. No, va bene, nessuno sta dicendo il contrario, però l'altra mi piace di più, l'altra radio. Sì, beh, l'altra c'è un altro tipo di timbrica, è diversa. Va bene, ok, prova, va, nel frattempo riprendi tu Gianni, e così Massimiliano cambia microfono, dai. Stavo dicendo, l'ho detto anche poco fa, che facendo un paragone a livello motoristico, voi siete in dente integrale e io sono col 112 Abarth. Con la novità spillo. Hola, hola, 1, 2, 3. Vai Massimiliano. Guarda a vedere com'è questo, 1, 2, 3, prova. Ma è sempre lo stesso apparato? Sempre col Cobra, c'è il tunnel più 3 da regolare sicuramente. Allora, Mickey Ghia manetta, e il tunnel più 3 è a 1,5. Questa è più naturale, però è più bassa dell'altra come intensità. Vabbè, posso aumentare un po', non so se è buona. Allora, così è quasi a metà il microfono, com'è? Questa è una saguba, tutta totalmente diversa, adesso la radio è molto bella presente. Se te lo sto dicendo, vuole il regolato. Ce l'ho esattamente, a 3,5 come livello, dai, neanche a metà. Sei al massimo adesso dei potenze. Cioè, no, non sono al massimo. Della radio, non del microfono. Sì, la radio è in bassa potenza adesso. Bassa potenza. E prova a mettere al massimo. Così è alta potenza, vabbè, 1, 2, 3, prova. E ti aumenta anche la radio, lo sai, quando metti alta potenza aumenti anche la radio. E boh, non lo so, questo me lo dovete dire voi. Posso aumentare ancora il microfono, eh? No, no, non aumentare, se già sta lampeggiando il rosso. Allora, alla massima potenza è più forte di quanti dB? Di 4 dB la radio. Stranamente, boh, non ho capito perché. E boh, non te lo so dire. Hola, hola, hola. Ma ti sei avvicinato o sei nelle stesse condizioni, nella stessa distanza? Che è cambiata totalmente la radio, più forte e più chiara pure, a potenza massima. No, no, no, sempre solita distanza, 20 cm più o meno. No, no, no, così è cambiato. Cioè, sembra un altro microfono, infatti, fate la prova con loro. Qua sta arrivando 9 più 20, fai la prova, mi dici, questo passaggio è a bassa potenza, parli e poi schiaccia e metti al massimo. Ti faccio vedere quanto scendi di intensità e poi che li conferma a loro. Allora guarda, questa è la bassa potenza, Robè, sempre a 20 cm dal microfono, adesso è alta potenza, sempre 20 cm dal microfono, ok? Allora hai guadagnato 3 dB di coso, parliamo di intensità di segnale, non di segnale, di modulazione, perché quando eri a bassa potenza eri, non lampeggiava il rosso, quando attacchi a metà potenza lampeggia il rosso e sei qua più 12 dB, mentre prima eri quasi 9 dB, per cui ha avuto un aumento anche di intensità di radio. Ok, va bene, ma se io invece la uso, scusate agli amici, se io la uso così in bassa potenza, vabbè, posso aumentare un altro pelino il microfono, è sempre buona, oppure sono al limite anche qua? No, così non sei al limite, qua sei sotto il rosso non si accende neanche, è quello che te lo sto dicendo, prova a sollevare, vediamo un pochettino, però ho notato una cosa, che come aumenti, migliora anche la radio, oltre che sollevarlo, non distorce, perché tu papà come stavi sollevando stavi iniziando a distorcere, prova a aumentare il livello del microfono un attimo. Allora, così ho aumentato il livello del microfono, vedi un po', è leggermente più di metà, ma proprio un pelo, Prova a sollevare ancora per curiosità. Così ancora un altro pelo più alto, vedi un po', sempre 20 cm, No, non è cambiato quasi niente. Prova a sollevare ancora. Guarda un po', così ce l'ho a tre quarti, diciamo ore tre. no, così ti poteva presso tutti i disturbi, no, era meglio prima più bassa, però tu con quella regolazione lì adesso, se tu aumenti la potenza, ti aumenta di quasi 4 dB, 3 dB di intensità, e non sono pochi, 3 dB sono tanti, quasi due volte la radio, parliamo di a livello strumentale naturalmente, non a orecchio. Ok, secondo me quando sei con la piena potenza migliori la radio e aumenta la forza della radio. Quindi così ho lasciato, ho provato a lasciare il microfono normale come era prima, un po' più alto, vedi un po'. Abbassa un pochettino Massimiliano. Ok, vedi un po', a metà. Prova a abbassare ancora un pochettino. Guarda un po', meno di metà, 1, 2, 3, prova. Così va bene, se non alzi la voce e tieni questa distanza sei giusto, poi se ti avvicini troppo alzi la voce vai in saturazione. Così è, per la cosa strana che è il contrario, normalmente quando uno aumenta la potenza si rotta un po' la radio, invece nel caso tuo come aumenta la potenza aumenta la radio e aumenta la qualità, cioè è il contrario, perché normalmente quando metti l'amplificazione dovevo un po' stringere, invece ti aumenta anche la radio oltre che il segnale. Ma Massimilia, perdonami, io voglio capire chi è che ti ha detto che esci male con questo microfono. Cioè, a volte qualcuno ha ragione che si dicono un bel coglionate, fammi capire, perché non riesco a capire chi ti ha detto che esci male con questa radio e con questo microfono. Diciamo per tutti, per fare una cosa generale, non voglio fare nessuna polemica, però diciamo per tutti, facciamoli così che è meglio. Perché avete parlato in due, dimmi giù. Lo stesso interrogativo che hai fatto tu a Massimiliano, lo volevo fare io, tu mi hai preceduto di un passaggio, per cui è quello che volevo capire. Come mai tu mi hai detto inizialmente che quel microfono non andava bene per la tua voce? Io non lo gioco, se non ti va bene la a me o Massimiliano. No, io non usavo questa radio. Per questo motivo anche, capito Giulio, era sempre parcheggiata, con il canne più 3 sempre parcheggiato, e usavo l'altra radio perché, parliamo in generale, dai, non ho voglia di, ti ripeto, di fare nomi né cognomi né nulla, però tanta gente ha detto che la radio con questo microfono non andava bene, tutto qua. Adesso ho voluto fare, giusto che stiamo facendo delle prove, ho voluto riprovarla, dai. Faccio vedere, è bellissima la radio, io non so chi l'abbia detto, però abbassa un pochettino la voce oppure abbassa appena il livello, adesso stavi leggermente, non dico saturando, però eri al limite. Il volume basso, poi l'hai aumentato. No, vabbè. Fuori di quando ho l'ultimo passaggio che hai fatto. Attacca l'NB anche tu. Perché si sentiva solamente un rumore di fondo, ma dovuto forse alla troppa amplificazione, ma era perfetto, poi beh, è perfetto, cosa volete dire? No, è bella la radio, no, infatti non riesco a capire cosa è successo, va bene, dai, come non detto. Ok, chi c'è rimasto qua? C'era Luca in parcheggio, avanti Luca, ci sei accorto? C'era Gianni Lubreffetta, Bulo. Ah, avanti Gianni. Eia, vabbè. Sì, ho visto le prove, i segnali bassa potenza, alta potenza, e sì, confermo che c'è una differenza. C'è una differenza evidente, Massimiliano, anche qua, e quindi confermo, dai. Sì, no, non interessa a me il segnale, capito? A me mi interessa, allora, quando si fanno delle prove, il segnale diciamo che è relativo, capito? Ho già. A me mi interessa la radio, non il segnale, non mi è mai interessato il segnale, per il segnale ci sono tanti metodi per arrivare bene, quindi problemi non ce ne sono, capito? A me mi interessa proprio come sta andando di radio, ecco. Questa cos'è? Quella che mi hai mandato la foto, Massimiliano, o l'altra? No, questa è Cobra, il 200 GTL DX, col Tarn più 3, B, quello nero. E l'altra invece che cosa usi di microfono? L'altra sto usando l'S9 col suo microfono originale, normale, un GTL. C'è modo di fare una prova veloce e ti dico i livelli anche di radio, che è meglio? No, adesso no, magari lo facciamo stasera, che adesso magari siamo al limite di chiamarci per scendere a dare una mano, là. Era giusto per dare, tanto stavate chiacchierando, nel frattempo ho attaccato questo. capito. Poi stasera magari facciamo delle altre prove, va? Vale, ci spostiamo appena appena, così vediamo un pochettino. No, no. Così, con questa intensità di potenza, migliori. Ma tanto, non poco. Guarda, 4 dB non sono pochi, mi riguadagno di intensità di radio. E anche la tonalità, secondo me, migliora un pochettino. Sai qual è il problema, va bene? Che noi andiamo a orecchio, tu vai che tu gicaffugio e le regole così. Io, per me, i passaggi che ha fatto Massimiliano quando tu l'hai fatto abbassare per me andava benissimo, alla grande, con una modulazione strepitosa, bellissima, bella alta, corposa, non stava saturando, non stava strappando. Ok, ripeto, io lavoro sempre con l'NB disinserito, perché perlomeno questa radio è così, forse perché c'ha tutti i filtri, c'è anche il filtro M, c'ha tutto, non le manca niente, c'è anche la voce, questo, vedi? Vedi? Questa è completa. E quindi io Massimiliano lo ascolto bene, tu chiaramente l'hai regolato con lo strumento, però io regolo le modulazioni a orecchie e per me Massimiliano sta uscendo veramente bene. Io continuo a ribadire, non capisco perché la gente a volte non è sincera, cioè se io sto uscendo bene in radio o ho qualche problema, senza peli nella lingua, si dice basta, ma non si può dire a uno stai uscendo male, perché male non esce Massimiliano con quel microfono, anzi io non ti avevo mai sentito così bene Massimiliano, te lo dico con molta sincerità, quella radio la devi usare, hai un ottimo segnale perché sei oltre 9 più 20 qua, senza nessuna presunzione di dire stronzate, e la radio è molto molto bella, e te l'ha detto anche Giulio che è vicino a te, quindi di che problemi ci sono, vai giù. Ok, sì, ma è bellissimo, infatti ti ho detto, se vuoi dire che quello non va bene, che lo dia a me quel microfono, cosa vuoi che ti dia? Ma se ne dia, no, sempre invece un'altra curiosità, perché da 9,10, poi se è 9,20, la differenza di watt, quant'è? Da 3 watt a 4 sale, poi? Adesso te lo dico, allora, ti faccio, allora, così, aspetta, cambio scala, 4 watt di portante bianca, ora, allora, aspetta ad attaccarmi il filo del GP, un attimo, ora, allora va da 3 watt a 60 modulati. Che sbagliato bene, ma sai, tu, da 9,10, quando parli, sai quanto arrivi? Arrivi quasi a 9,25, è una cosa impressionante, si sente proprio la potenza che c'è, altro che se c'è. Sì, però no, sono importante, fammelo, a parte il microfono, sono importante, fammi capire quanto sale di watt, senza il discorso modulato, quello sì, perché c'è un picco altissimo, ma veramente alto, da 9,10 a 9,25, non so io. Sono voi la portante fissa, quante watt hai? Allora, questa è la portante bianca, Giulio, e in bassa potenza sono 4 watt, lascia perdere i modulati, 4 watt di portante muta. Alta potenza 20-30 watt di portante bianca. Ecco, quello appunto volevo vedere. Capita, non so io, da 9,10, 9,11 per la verità, dai, non proprio 9,10, 9,11 arriva a 9,20 e si vedi bene che c'è la sostanza, i muscoli ci sono, Massimiliano, ci sono i muscoli. Non lo so adesso lavoro quanto guadagna, ma qui guadagni moltissimo, non è poco, capita. 30 watt poi non è che siano un'esagerazione, ma guadagni moltissimo, veramente. Avanti, Claudio. Sì, capo, riprendo e confermo, perché vai da 9,10 a 9,20 sulla portante bianca, sul parlato vai a 9 più 25, Massimiliano, dalla bassa all'alta potenza, strepitosa quella radio, sai benissimo che le prove le ho fatte anch'io qua, con una variante di modulazione, perché con lo stesso tuo microfono che stai usando adesso, sai che era qua, la modulazione è completamente diversa, ma si parla di timbrica, e ti dico che quella radio la devi puntellare, perché per fare, per usare la R27 penso che ce ne sia anche in abbondanza, è veramente molto molto bella, hai un incremento favoloso di segnale, strepitosa la modulazione e nessuno ci può permettere, e dico nessuno ci può permettere, e lo puntello, di dire che quella radio non va bene in 27 o esci male, perché è veramente una cosa che non si può assolutamente dire, ok? E lo confermo, intanto stiamo giocando ai soliti ignoti con Gianni Rubrofetta, io vedo e confermo, compreso ai Rubrofetta, non va guardi mai ai soliti ignoti, confermo, e confermo anche che adesso vado a preparare a mangiare, che devo fare qualcosa io oggi, e quindi vi lascio e rimango in QRX, va bene? Un abbraccio a tutti, buon pranzo e ci sentiamo stasera, vai Rubrofè, e non ridi, chi ti veguia, non ridi, tu puntella e conferma. Va bene. Mamma mia. Volevo dire una cosa, nel frattempo è mi si è fuggita, Maddalena mi si è fuggita. Amnesia, dai, non mi ricordo più cosa volevo dire. Avanti, Robè. Secondo me la radio non va bene, ma questo è un CD. Roberto, non riprende, allora riprende. Aspetta, stiamo parlando. Infatti è così, Massimiliano. Se non è bella quella radio, non lo so, è incredibile. Ma comunque, ognuno le proprie idee. Oh, c'è da prendere in considerazione anche con quale fanno vecchio uno ti ascolta, o Massimiliano. C'è anche quello da prendere in considerazione. Se uno ha un barattolo di conserva per ascoltarsi, e allora può darsi anche che si senta male, senza appurarsi. Per cui, ma se uno ha una radio discreto, non dico che debba essere per forza un professionale, ma una radio discreto che non traballi sul tavolino quando tu parli, io penso che sarebbe un sacrilegio dirti che non va bene. Cosa vuoi tricchia? Se prendi. Ma sai che stavamo parlando? Chi era Fabio? Ora? Saluti a tutti, la radio non va bene, ci vuole Coppa Giunca, hai capito? Avete sentito Fabio? No, io non l'ho sentito. Ci ha detto che la radio non va bene, ci vuole il compact disc, così. Avanti Fabio, vediamo se mi ascolti. Ma io per Alghero già lo sai che non. Penso che sia Alghero, per Alghero non è che sono in una condizione favorevole. Avanti Fabio, se mi ascolti. Niente, ci parla sopra. Vabbè, devi salutare, di non ascolto, dai. Si capisce che fino a quando non ha pronunciato del cielo, è un poco da. È ok, dice che c'ha problemi, vabbè, comunque non è ad Alghero, è qua a Sassari, zona di Luna e Sole, c'ha problemi di antenna, avete parlato comunque in due, Massimiliano e Giulio, vi siete quasi annientati uno con l'altro, ok, dice vi saluta a tutti e basta, ok, si deve sistemare un po' l'antenna. Una domanda in generale, io sono l'unico che ha sentito la differenza di aumento di intensità di radio attaccato e non attaccato, quello lì che voglio fare una domanda, perché io l'ho sentito molto evidente la differenza di aumento di intensità di radio, non parliamo di qualità, di intensità di radio a bassa potenza era più bassa, ad alta potenza era più alta, lo dico perché lo vedo ed è tanta la differenza, sono l'unico che me ne sono accorto, l'avete sentito anche voi. Ma io avevo confermato quando tu hai detto che di abbassare, io avevo confermato poi nel passaggio che mi ha toccato che appunto addirittura sentivo un leggero rumore del fondo, per cui abbassando andava bene, io l'avevo confermato, certo, ma io l'ho sentito la differenza nei vari passaggi, addirittura quando lui era col microfono a 1,5, per me era quasi una radio, un microfono normale, però di una chiarezza impressionante, proprio bello. Poi che è incominciato a salire a 2, a 3 di volume, allora è incominciata a subentrare l'amplificazione, bellissima, ugualmente bella, io ho pensato a quello, per quello che ho detto, se non ti piace questo microfono, ma ti vedi, ti ripeto, là a me non ti preoccupare che già te lo accetto volentieri. Vai, sì, devo andare anche una foto, Giulio, dopo magari, se vuoi la vedi. No, Robè, io non ho parlato insieme a Giulio, ero zitto, stavo ascoltando Fabio, mi sembra, che è entrato, io l'ascolto un po' bassino, che lo saluto, e anche io adesso vado a aiutare a mia moglie a preparare qualcosa. Dai, se in caso ci ascoltiamo dopo pranzo, vi auguro una buona carica a tutti e ci sentiamo dopo. Riprendi un profeta, fai girare e io non riprendo più, ascolto il finalino e chiudo, ciao. Eia, andava bene, bulldozer, dai, buona carica, casomai ci aggiorniamo più tardi. Colgo l'occasione per salutare Fabio, non mi arriva fortissimo qua, comunque Santiago 3, radio 3, 4, dai, comunque salutoni anche da questa parte. E niente, se mi è copiato, via avanti. Sì, sì, ti ho fatto il copiato. Bene, bene. Niente, il discorso è che siccome è scoparsi, perché siamo tutti, rimango un attimo in ascolto, così non mi disturbo, capito? Vabbè, mi dispiace comunque, stiamo ti ascoltando tutti, dai, non c'è problema. Ciao Massimiliano, ben sentito, grazie del QSO, già ci sentiamo con calma, buona carica e buon tutto, vai giù. Ok, per salutare a Massimiliano, ciao Massimiliano, buon pranzo la stasera, dai. Sì, bella radiolina quella che mi hai mandato la foto, molto bella. Bene, vai in braffè a salutare a Massimiliano. Già fatto Giulio. Piuttosto, mentre stava parlando Fabio, c'era un macaco che stava strillando, che stava cercando di coprirlo, vabbè. No, non lo sento io Fabio, la verità, non lo sento. Tu mi hai detto che vicino a te, Robè, allora come sta uscendo, con quale antenna sta uscendo? Non è antenna, è antennino, però. È diciamo una situazione un po' precaria, dai, comunque già si sistema tutto. Qua considerando che siamo molto vicini non arriva forte, arriva anzi molto basso, però è 9 più 10 qua il segnale, dovrebbe arrivare almeno 9.40 qua, per come siamo vicini, considerando come sono le condizioni di altre persone qua vicine. Ok, e c'è un'antenna, che lo conferma, che antenna c'è sul loro avanzare, dove ce l'hai? Un'antenna di macchina, Fabio, cosa c'è? Allora una tubo 2001 sulla piazza davanti alla finestra, per cui non riesce a radiare come dovrebbe, dai. Ah, ho capito, ecco il motivo per cui non riesco a sentirlo. Evidentemente le manca la massa, le manca. Sicuramente così. Stavo dicendo, Robert, dimmi per cortesia, segnare io con questi 10 watt. Sì, 10 watt, esatte. Se è 9 più 15 con i picchi arrivi quasi a 9 più 20, poco meno di 9 più 20. Ok, ho capito, se aumenta un pochino, vediamo se do una stazzata, se guadagno qualcosina, qualche punto estero guadagno, vai, 1, 2, 3, prova, vai. No, più o meno uguale, non è che cambi più di niente, quasi lo stesso segnale. Ok, va bene, va. Alla grande. Ok, oh, tu mi stai arrivando a 9.10, mi stai arrivando quasi 9.8, per l'esattezza. Quanti watt stai usando? No, io vado sempre su 10, poi ci sono i modulati, arrivi un po' di più, però di portate fissa saranno una quindicina. Cos'era quello? Un break era? Non ho capito bene. Neanche a me mi sembrava. Avanti il break. Ti ascolto basso, chi sei? Ho sentito Roberto, chi è che l'ha ascoltato meglio di me? Dove sei? No, purtroppo sei in mezzo al QRM. Giulio, l'hai ascoltato tu? No, io esattamente, ho ascoltato quello che hai sentito tu. Mi senti non me l'ho sentito e basta, non ho sentito altro, poi è sparito. Avanti l'amico, che è? Non sento nessun altro. Vabbè, dai. Tu lo senti, Gianni? Negativo. Non ho... sento solo rumore di fondo e basta. Dai, visto che ho il mic, vi saluto, corriti per me e vado a caricare, ok? Buona carica a tutti e casomai ci aggiorniamo più tardi, ciao ciao. Ok, ciao Gianni, a stasera, dai, se coincide, buon pranzo, e anch'io gira, mi sono lunga meno 8 minuti, per cui incominciamo a fare la strada della parte bassa della casa. Vabbè, a parte di Roberto. Anche io tra qualche minuto vado via. Ciao Gianni, ben sentito, buon tutto, dai, buona carica se devi farlo. Vediamo un po', se rilanciamo l'amico che stava chiamando Roberto prima, non ho capito chi sia, non credo che sia Eugenio. Credo che non sia in macchina. Mi sembra più qualcuno di Alghero molto basso. Ah, questo lo sai chi è, questo è Riccardino, forse è dalla nonna, l'ascolti tu. No, non lo sentono, Roberto. me non lo sento assolutamente. Riccardo, tu sì, ti sento proprio in mezzo a quello. Io purtroppo qua ho sempre QRM alto, adesso ce l'ho assi il segnale più o meno così, riesco poi appena a tirarlo dal fondo. Avanti, se sei tu Riccardo, prova un po'. No, no, ti sento quasi niente. Santiago di cosa? Santiago di 6, radio di 1, dai. Riesco a capire che c'è a capire. Sento che stai parlando, però non riesco a capire. Ma sei la tua nonna, Ricca, se sei tu, confermi. Questo è un altro break, avanti il break. Ah, ciao, sì, adesso ti ascolto, Sergio. Sì, hai migliorato qualcosa. Riccardino era un po' sul fondo. Ciao Gianni, cosa? Di Muro, un attimo sta parlando Sergio, il padre di Riccardo. Avanti, Sergio. Ah, questa è una voce, perché dice, adesso hai migliorato, ti sento un po' più forte, sei 7. Poco fa eri intorno ai 5-6, però eri molto molto basso, cioè il QRM ti annientava, adesso ti ascolto. Ti rilancia Giulio, avanti, controllati bene quel cavo comunque, scusa un attimo Gianni da Muro, su, facciamo prendere a Giulio, un attimino, vai Giulio. Sì, mi è caduto, dai, ma l'ho chiamato due volte, devo scendere velocemente. Ciao, grazie, grazie per il cuore, ciao a tutti, ci sentiamo stasera, ciao, ripeto. Ciao Giulio, dai. Di nuovo Sergio, riprendi un attimo. Non so se ti ascolta lui, non so, Gianni Capirù, ha ascoltato Sergio da Sassari, ma ti sta aiutando naturalmente. Cavolo, sta alla grande, 9 più 5 radio 5. Ehi, dopo 5 minuti ti chiamo, ti devo chiedere un'informazione, Gianni, ok? Dopo ti chiamo, ti devo chiedere un'informazione tra 5 minuti dopo questa poco. Un'informazione, ok. Va bene, vediamo se c'è ancora Sergio, avanti Sergio. Ok, ti sta ascoltando comunque, mi ha detto Gianni Sergio, il cyberpadre di Riccardo, ti ascolta la radio, il segnale bassino, la radio riesce a tirarti un pochettino fuori. C'è anche Fabio, vediamo un po' se Fabio è rimasto ancora, se ti ascolta, avanti Fabio. Sì, sì, ascolto, ascolto benissimo, benissimo, quel micro toccai deve essere una bomba. No, no, parlo se ascolti Sergio. Oh, Sergio, vieni avanti un attimino. Anche qua, Santiago 78, radio 4 abbondante. Ok, Capri, avanti a te, c'è anche Claudio, sei solo? No, ho chiesto se c'era tuo figlio Claudio, ma sai se c'è il fisso tuo? Ok, no, sto guardando, sto cercando se c'è il numero tuo, aspetta un attimo, c'ho il numero cellulare, ce lo dovrei avere, guardo se c'ho il fisso. Ecco, non c'ho neanche più il numero coso, il numero, aspetta se c'è. Allora, Gianni, c'è stato un bedino, perché ho cambiato questa estate il telefono, ma molti numeri li ho persi. Aspetta se c'è come Capri, scusa un attimo, sto guardando, Capri, Capri casa e Capri cosa, sì sì, aspetta, guardo, il numero finale è 681 di casa tua, Capri, vabbè ti chiamo lì dopo, dai, te lo chiedo un'informazione. Gappa, gappa, scusa, pulitissimo, precisissimo, bella parata quello. Ok, no, no, ti ascolto perfettamente sia di radio che di segnale, non c'è problema, siamo abbastanza aperti io e te. Volevo chiedere, Sergio, come mai sei più basso del normale? Me l'hai detto prima, però non l'ho capito, dimmi, non sta uscendo il radio. Sergio, sei troppo basso di radio, il segnale è salito a 9, ma la radio è quasi inesistente. Tanto c'è il QRM è assurdo, in questi giorni, anche a 8 arriva. Questa antenna prende tutta la mondezza che c'è in giro, aggancia tanti segnali, però prende tutta la mondezza. Adesso appena posso metto l'altra, oggi non ce la faccio perché mi devono portare il cavo e vediamo con l'altra cosa va a finire la storia. Questa è la Mantova, no, c'è un'ottima trasmissione, un'ottima ricezione, però purtroppo prende anche molto QRM. La Mantova prende tutto e riesce anche a farlo oscillare sempre queste strade. No, no, niente da dire, però purtroppo in certe situazioni quando ci sono segnali bassi è un po' difficoltoso. Dai. Adesso domani, non so quando, ce l'ho già su pronto a installare, c'è una PKV, una 9 metri di antenna da 0 a 30 fa, e voglio provare un po' con quella, non dico che miglioro la qualità di trasmissione, però quando ci sono segnali un po' disturbati, magari mi abbassa un po' il QRM, magari funziona un po' meglio. Magari no, che riesce ad alzare, a correggersi, e il microfono, la potenza, quello che vuoi, con la sua uscita, ma la ricezione è la cosa più delicata di un apparato. Già lo so, ce l'ho un altro ricevitore professionale da laboratorio, però adesso se no viene male, dobbiamo fare un sistema di commutazione, cioè usare quello in ricezione e in trasmissione usare questo, ci vuole un sistema a relè, comandi, diciamo una cosa un po' delicata, se no sfasci tutto. Io ho fatto con un piccolo RZ1, sono di soddisfazione, una cosa che può anche me tipo quello, però ho tutto, come ho detto, non so se mi devo dire, non sentivo bene per dire. No, la segnale era forte 9, però era, la radio era bassissima, cioè quasi non si sentì. Beh, ma il QRM riesco a gestirlo, non ho capito. Ah, lo gestisce lui, non c'è cosa di difficile, evidentemente interessante. Tanto, un sacco, vabbè che è un altro senso, come dice Vittore, questo, poi sarà più accurato, cosa l'altro va con il mattino, però c'è tanta soddisfazione per l'ascolto con questo, anche radio nelle medie, onde corte, scendere giù a sentire roba da parte del mondo, con un pezzo di filo. Che cos'è? Come hai detto il modello? Cos'è un campus? È un campus RZ1, tipo autoradio. No, non ce l'ho presente. No, io ho un ricevitore a laboratorio professionale super selettivo, che è una bomba, ho fatto delle prove con l'ICR7000 e li fa 10-0. L'ICR7000, non so se lo conosci, è un grandissimo ricevitore, ma quello li fa 10-0 come ricezione, poi è molto più selettivo, fa da 0 a 30 e poi fa da 88 a 108. E poi c'ho un valvolare grosso della Trio, che questo qua c'ha tutte le bande, e ti posso dire, un apparato che ci avrà 40 anni, però c'ha una sensibilità da paura, cioè molto molto silenzioso, purtroppo i transistor sono molto, portano anche a sporcizia, ti amplifica anche la sporcizia, ci vorrebbe un DSP, un sistema digitale per pulire il segnale. Io l'ascoltavo forte di segnale, però era la radio era forse poco, troppo bassa, non sul microfono, abbia cambiato il microfono, adesso lo rilanciamo a Sergio, vediamo un pochettino, dai Sergio, ci sei ancora? Sì, adesso è migliorato, poco fa eri troppo basso di radio, non capisco per quale motivo. Sì, è più forte la radio, prima eri proprio basso basso, sembravi in lontananza. Ok signori, però io adesso vi devo lasciare che devo andare a mangiare, dai, saluto a te Sergio, saluto a, come si chiama, a Fabio, saluto a Gianni Capri, adesso tra poco ti chiamo Gianni che ti devo chiedere un'informazione, e poi tutti gli amici eventuali in ascolto, stasera probabilmente dopo pranzo ci risenteremo. Ok, cuore ti da parte mia, ciao ciao. Gianni e tutta la compagnia cantante e anche il gesto tuoi, dopo che la batteria magari ci risentiamo, possibilmente anche qui, così non stiamo a cercare l'arci per trovarci nei canali. Ciao a tutti.